Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Legge la riforma della scuola, in piazza esplode la protesta, tafferugli a Roma e Milano. Il ministro Gelmini promette ora la riforma degli Atenei, ma per motivi di sicurezza non va all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università Lateranense. Vanno bene oggi le borse, cala ancora l'Euribor, ma da Confcommercio arriva l'allarme per i consumi. Detassare le tredicesime è un'ipotesi, ma ora i fondi sono pochi, dice Berlusconi. Il governo pronto a intervenire se le banche lo chiederanno. L'anno dopo, a Tor di Quinto, i lampioni ci sono. In attesa della sentenza per la morte di Giovanna Reggiani, siamo tornati dove è stata aggredita. La seconda vita di un campione, Maradona torna a guidare la sua Argentina, questa volta seduto in panchina. Dichiara aperta la votazione dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge 1 settembre 2008, numero 137. Votazione aperta. Votazione chiusa. Il Senato approva. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Così dunque l'Aula del Senato alle 10:33 minuti questa mattina ha approvato il decreto Gelmini. La riforma della scuola adesso è legge. L'Aula, come previsto, si è spaccata con una netta divisione tra maggioranza e opposizione. Fuori dal Senato sono arrivati i fischi degli studenti, poi sono scoppiati tafferugli. Tafferugli anche a Milano, ma andiamo con ordine e cominciamo con quanto è accaduto nell'Aula del Senato. Ce lo racconta Elisabetta Fiorito. Sì, 162 sì, 134 no, 3 astenuti. Il decreto Gelmini sulla scuola è legge dopo l'approvazione di questa mattina a Palazzo Madama. Immediato l'intervento del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, per il quale le proteste degli studenti sono manovrate dalla sinistra, ma sentiamo il Premier. Bene, come era logico che fosse. Piace soltanto che siano stati presi in giro tutti questi ragazzi che sono in giro per Roma o anche nelle altre città, perché evidentemente è una vera truffa che sia combinata alle loro spalle. Questo decreto sulla scuola primaria, sulla scuola elementare non c'entrano nulla, e sull'università ancora nulla è stato deciso. Quindi spiace davvero che ci sia questa capacità della sinistra di truffare ancora i propri stessi sostenitori e anche coloro che sostenitori non sono. Non c'è nulla di ciò che ho letto nei volantini che corrisponde alla realtà, nulla di nulla. La riforma prevede il maestro unico alle elementari, il ritorno dei voti in pagella e di quello in condotto, l'aumento della durata dei libri di testo. Una seduta, quella di Palazzo Madama di questa mattina, senza i toni aspri di ieri, e il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini preferisce rimandare ad una nota il commento post voto. La scuola cambia, scrive il ministro, si torna alla serietà, al merito e all'educazione. Entro una settimana, promette poi Gelmini, presenterò il piano sull'università. Soddisfatta la maggioranza, mentre da parte dell'opposizione l'Italia dei Valori lancia la proposta del referendum per abolire la riforma, idea appoggiata da Anna Finocchiaro del Partito Democratico, che subito dopo il voto è andata per strada ad incontrare gli studenti che protestavano davanti a Palazzo Madama. E sentiamo Anna Finocchiaro. La parola democrazia è la parola futuro. Parole che non abbiamo ascoltato, diciamo, durante questo dibattito da parte né della maggioranza né del ministro, che ha ostinatamente, opacamente, in maniera determinata taciuto, come se non fosse la responsabile di questo provvedimento, se non fosse la responsabile della scuola e dell'università italiana. La maggioranza ritiene che con l'approvazione del decreto Gelmini, quello di oggi, sia finita qui. Non è affatto finita qui. Fuori il Parlamento, è una promessa che vi facciamo. Ecco, abbiamo sentito la voce distorta dal megafono di Anna Finocchiaro, e per il momento qui da Palazzo Madama è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E come dicevamo, come sentivamo, l'Aula del Senato, dove si votava il decreto Gelmini, era assediato dalla protesta degli studenti in tutta Roma, e non solo, però cominciamo da Roma, ci sono stati anche dei tafferugli, momenti di tensione. Francesca Malaguti. Buongiorno. Buongiorno, è stata quasi surreale la rapidità con cui il presidio di Piazza Navona si è trasformato da folla pacifica a folla armata. Verso le 12.30 un fronte di studenti di sinistra ha iniziato ad avanzare verso la parte della piazza dove stava il camioncino del blocco studentesco di destra, al grido di siamo tutti antifascisti. I ragazzi del blocco si sono parati in un cordone e dal nulla sono spuntate mazze, catene e caschi. Caschi indossavano anche i ragazzi di sinistra che si sono armati con quello che hanno trovato sul loro percorso, bottiglie e bastoni. Poi c'è stato lo scontro durato una decina di minuti. Sono volati anche tavoli, sedie, ombrelloni dei bar di Piazza Navona e infine è intervenuta la polizia a dividere i due gruppi con manganelli e scudi e ha dovuto usare la forza per sedare il grande tafferuglio. Ci sono dei feriti e ci sarebbero anche alcuni ragazzi fermati, anche se alcuni ancora non abbiamo numeri ufficiali. Ora il gruppo del blocco studentesco è stato fatto uscire da Piazza Navona e che rimane però presidiata dagli studenti di sinistra. Per il momento è tutto. Grazie Francesca Malaguti, naturalmente chiedici la linea se ci saranno aggiornamenti. E proprio per questa situazione è stato deciso anche che il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, che oggi doveva essere presente all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Lateranense, subito dopo l'approvazione del decreto sulla scuola, invece resta in Senato. Questo per motivi di sicurezza. E dicevamo manifestazioni degli studenti, naturalmente non solo a Roma, andiamo a Milano dove c'è stata un'altra manifestazione, anche qui scontri, incidenti tra ragazzi e forze dell'ordine. Gioia Reffo. Siamo in pieno centro di Milano, a due passi da Piazza San Babila, dove si stanno in questo momento dividendo i cortei degli universitari e quelli dei ragazzi delle superiori che sono confluiti stamattina in modo totalmente spontaneo dalle varie sedi dopo che avevano saputo dell'approvazione del decreto Gelmini in Senato, in centro, in una manifestazione collettiva, in un corteo totalmente non autorizzato. Si sono ritrovati sotto Scienze Politiche, appunto in Piazza San Babila, zona centrale di Milano, e lì si sono uniti anche dei ragazzi di Scienze Politiche che nei giorni scorsi avevano alimentato manifestazioni e lezioni in piazza a Milano. Ci sono stati dei momenti di tensione quando il corteo ha visto una strada bloccata vicino via Conservatorio, una strada bloccata dalle camionette della polizia, ma per fortuna i ragazzi hanno solo inneggiato slogan contro la Gelmini, ministro Tremonti e naturalmente il decreto appena passato, però non c'è stato nessun tafferuglio, nessuno scontro, mentre gli stessi ragazzi in realtà dicono che prima di arrivare in Piazza San Babila alcuni scontri ci sono stati e sono stati anche diciamo feriti, malmenati alcuni ragazzi delle superiori. A voi la linea. E così dunque anche a Milano. Sì al maestro unico, la vignetta quest'oggi di Giannelli sulla prima pagina del Corriere della Sera, a dipingere un po' la situazione del voto, un Berlusconi solo nei banchi del governo di fronte ad un'aula del Senato con i senatori, con i grembiulini della scuola. E il governo, sentivamo, va avanti anche perché, come sappiamo, il ministro Gelmini si prepara a presentare presto anche la riforma dell'università. Ma a questo punto l'esecutivo è più o meno forte dopo questo braccio di ferro con l'opposizione? La domanda la giriamo a Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. La mia risposta è questa, che il governo ha molti problemi che riguardano soprattutto come affrontare la situazione economica veramente difficile del paese e anche altre questioni, per esempio la legge elettorale per le europee che divide molto all'interno della maggioranza. Ma io credo però che la questione del decreto Gelmini in se stesso non indebolisce di certo il governo, secondo me pone dei problemi alle opposizioni, perché un'opposizione parlamentare, politica, che voglia essere riformista non può andare dietro alle manifestazioni di piazza degli studenti. Un conto è rispettare il diritto di tutti a dissentire, un altro conto è confrontarsi nelle sedi opportune con chi è portatore di altre idee, ma io credo che non abbiamo certo bisogno nell'Italia del 2008 di una riedizione stanca e un po' francamente sgradevole del 68. Queste manifestazioni sono legittime, però io penso che l'opposizione dovrebbe anche gestirle politicamente in un modo serio. Grazie naturalmente a Stefano Folli. E c'è un'ultima ora che riguarda proprio gli scontri di questa mattina, Anna, leggiamola insieme. Luigi Mone, dirigente generale dell'Ispettorato della Polizia di Stato presso Palazzo Madama, è rimasto ferito negli incidenti di questa mattina davanti al Senato dopo il via libera alla riforma, e insomma, quindi i feriti un a questo ferito, punto sono anche ufficiali. Un ferito cede, ufficiale, staremo a vedere cosa succederà. Ancora in questi giorni sono, oltre alla scuola e la crisi economica ad occupare la prima pagina, lo è anche oggi. Allora veniamo anche al secondo tema, le borse, diciamo subito, oggi vanno bene, Milano guadagna attorno all'8%, anche se oggi ci sono anche altre notizie che arrivano da un vertice alla sede del Ministero dell'Economia per studiare misure concrete per le piccole imprese, e subito dopo il Presidente del Consiglio Berlusconi è andato all'assemblea di Confcommercio. Sentiamo che cosa ha detto Berlusconi. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. Un intervento a tutto campo, quello del Presidente del Consiglio Berlusconi, ospite oggi della Confcommercio. Crisi finanziaria e misure per combatterla in primo piano. La situazione è meglio di quella che viene mostrata su giornali e TV, ha detto Berlusconi, che comunque ha annunciato due linee di intervento. La prima, una possibile detassazione delle tredicesime compatibilmente con le risorse, ha detto il Premier, che sono però scarse. E poi aiuti al sistema delle banche qualora queste lo dovessero richiedere, anche sottoscrivendo le loro obbligazioni. Ma ascoltiamo le parole di Berlusconi. Quello che è importante è che non bisogna fermare il flusso dei finanziamenti delle banche al mondo delle imprese e alle famiglie. Noi su questo interverremo, il nostro sistema delle banche è molto solido, il governo lo sa bene, tuttavia se le banche lo richiederanno il governo è a disposizione per intervenire. Il Presidente del Consiglio ha poi ribadito che il sistema bancario è solido. Berlusconi ha annunciato inoltre che domani vedrà a Palazzo Chigi il mondo produttivo per studiare insieme le misure appropriate per rilanciare le imprese e uscire dalla congiuntura. È tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E a proposito delle iniziative per rilanciare i consumi, si era parlato della possibilità di detassare le tredicesime. Il Presidente del Consiglio Berlusconi però ha detto in questo momento non è chiaro se i fondi siano sufficienti a una misura del genere. Resta anche il capitolo europeo in tutto questo, ne parleremo anche più avanti, perché oggi è intervenuta di nuovo anche la Commissione europea. Ora però facciamo un balzo per andare invece nell'Argentina del calcio, che ritrova un grande, grandissimo campione, ma in tutt'altra veste. Parliamo ovviamente di Maradona. Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y desde el tercero va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Come calciatore è stato il migliore, inutile paragoni con Cruyff, Pelé, Di Stefano e altre figure leggendarie. Maradona è il calcio, il mito, il talento assoluto. È riuscito perfino a fare un gol di mano così perfetto che nessuno se n'è accorto. Mano de Dios. Adesso Diego Armando, eccetera, eccetera, dopo una seconda vita spericolata, torna non più da capitano, ma da allenatore alla guida dell'Argentina. Un'Argentina che annaspa nel suo viaggio di avvicinamento ai mondiali del Sudafrica. Però Diego non sarà da solo. Al suo fianco Bilardo, l'uomo che nel 1986 seppe disciplinarlo per portarlo ai trionfi del Mondiale. È chiaro che è un azzardo, perché Maradona è Maradona. Guidare il proprio talento è una cosa, quello degli altri è un'altra. Tanto che lo stesso Diego raccontava che i Maradona sono meglio in aria che a bordo campo. Eppure, con mano de Dios, non si sa mai. Possibilista Massimo Mauro, suo ex compagno nel Napoli. È stato un grande calciatore, anzi, è stato il più grande, secondo me. Però avere a che fare con la psicologia di 30 persone, le convocazioni, gli interessi di una squadra e l'altra, tornei che durano poco, oppure le fasi di qualificazione che durano invece anni, sono un sacco di problemi a cui uno si deve predisporre con grande umiltà e grande intelligenza. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:19 minuti, le notizie di oggi, extra large. Scuola, il decreto Gelmini è legge, soddisfazione del ministro, ora si torna alla serietà. Tensioni nella manifestazione degli studenti a Piazza Navona, ci sono anche due feriti. Borse positive e nuova flessione dei tassi interbancari, denominati in euro, con l'Euribor a tre mesi sceso ancora di 3 punti, al 4,83%, ai minimi dallo scorso 22 aprile, il 14° ribasso consecutivo. E Intanto l'Unione Europea presenterà a novembre un piano di incentivi esteso a tutti i paesi con iniziative per risollevare l'economia. Hollywood sbarca a Roma, Colin Farrell ospite alla Festa del Cinema. E andiamo proprio a Roma per il Festival Internazionale del Film. Quest'anno molti gli ospiti stranieri, tra questi Colin Farrell, uno dei protagonisti di Pride and Glory, film in concorso per la regia di Kevin O'Connor. Colin Farrell interpreta un poliziotto corrotto che se la deve vedere con il collega cognato, interpretato da Edward Norton. Marta Cagnola l'ha intervistato. Sometimes you're playing a character who's closer to who you... A volte reciti personaggi che in un certo senso ti sono più vicini, che come natura, come tessuto interiore, sono più vicini a quello che tu senti di essere, e altri che sono invece i più disparati, i più lontani da te. In questo caso Jimmy Egan ha un modo di essere e un modo di fare che sono assolutamente molto lontani da me. Il mio codice morale è totalmente diverso dal suo. Quando giri, il personaggio ti resta dentro. Non è facile liberarsene, anche perché ti sei immerso in questo ruolo per 12-14 ore al giorno. È vero, tra una ripresa e l'altra ti fumi una sigaretta, ti bevi un caffè, ma l'ambiente del set è quello, l'aria che respiri è quella. A volte ti ci vuole un po' per liberarti dal personaggio che hai interpretato. Te lo porti a casa, anche se cerchi di evitare che influisca sui tuoi umori. A volte capita. Te lo ritrovi nei sogni, a volte. Allora adesso vorresti un ruolo positivo? I've never really had a list of directors or characters that... In realtà, non ho mai avuto un elenco di ruoli che avrei voluto interpretare o di registi coi quali avrei voluto lavorare. Siccome finora a me ha funzionato bene, così voglio continuare in questo modo. Guardandomi un pochino indietro e soprattutto considerando il fatto che gli ultimi film che ho interpretato sono ricchi di violenza, benché io trovi la violenza qualcosa di mostruoso, al contempo è qualcosa che trovo affascinante. Quello che mi affascina è il comportamento umano, che in un certo senso si spinge alla violenza e ovviamente trova giustificazioni alle azioni crudeli che esegue. Adesso però basta con la violenza, voglio fare qualcos'altro. Dopotutto io ho una vita molto pacifica, è molto diversa dai ruoli che interpreto. Quindi tu oggi sei felice? Sì, sono felice. Odio dire una cosa così banale, ma sono felice. Il successo è una cosa relativa. Oggi il mio regista ha aiutato una persona non vedente ad attraversare la strada. Quello è un successo. Quanto al fatto che il possedere fama e soldi ti possa dare la felicità, non è così. Anche se qualcuno mi può dire, per te è facile dirlo, tu ce li hai. Io posso dirvi che non è automatico, che solo perché hai successo e soldi la felicità ti viene consegnata sulla porta di casa. Anzi, soprattutto nel mondo artistico, c'è molta meno felicità di quanto uno si possa aspettare. Nel tuo film sei un americano di origine irlandese, tu ora però vivi a Hollywood. Ma quanto sei legato alla tua Dublino? È da un solo paese che vieni. Io vengo da Dublino e sento ancora fortissimo il legame con l'Irlanda. A volte è un legame doloroso, soprattutto quando ci torno. Anche perché quando vado lì ho questo desiderio nostalgico di ritrovare l'Irlanda e la Dublino che conoscevo da ragazzo e che oggi non esiste più. Il mio paese è cambiato e continua a cambiare quando non ci sono, ma è sempre un fortissimo richiamo. A parte mio figlio, tutta la mia famiglia è lì, gli amici di sempre. Il mio cuore è diviso in due. Due anni di inchieste giudiziarie, quattro morti sospette, un'inchiesta ed arresti anche per la costruzione di un nuovo ospedale. Stiamo parlando di Vibo Valentia in Calabria, dove lunedì scorso è stato disposto il sequestro di 3 reparti del nosocomio. Annalita D'Ambrosio ha intervistato il commissario straordinario della struttura sanitaria dell'ospedale di Vibo Valentia, Luigi Rubens Curia, che si è insediato lo scorso settembre. Ecco, cosa le ha raccontato? Mi sono insediato nel pomeriggio, ma il 23 settembre la mattina c'erano già i NAS. che mi avevano anticipato. Io già, essendo un dirigente della Regione Calabria, in parte conoscevo le questioni inerenti all'ospedale di Vibo. Da una parte il fatto che il mancato rispetto della normativa antincendio o anche di altri aspetti di natura strutturale nell'impiantistica elettrica, tutta un'altra serie di varie situazioni. Mi sono subito premurato di fare con una task force una approfondita ispezione, e quindi una serie di schede abbiamo elaborato e che abbiamo inviato all'assessorato regionale della sanità per la possibile messa in sicurezza, ecco, più che messa a norma, messa in sicurezza dell'ospedale di Vibo, per cui sono necessari circa 6 milioni di euro. Il presidente Loiero ieri ha fatto riferimento a questa nuova struttura e ha detto puntiamo alla costruzione del nuovo ospedale. Però lei lo ha detto, stiamo parlando del 1990. Cioè ci no, sono no, 97. 97. Però sono passati 10 anni, cioè si è discusso della costruzione, ma la prima pietra è stata posta o no? Ma guardi, le dico una cosa, su questa c'è stata poi una vicenda di natura giudiziaria che si chiama ricatto proprio, su cui alcune persone sono state già condannate sulla costruzione, perché lei sa che costruire un ospedale per 77 milioni di euro è appetibile, no? Quindi da tutti, diciamo. Io non mi lascio schiacciare dall'emergenza, cioè nel senso che io non è che sono qui per fare l'elettricista dell'ospedale. Io devo, siccome questa è un'azienda che deve erogare prestazioni, noi stiamo lavorando molto perché si garantisca e si incrementi la qualità della prestazione, non solo nell'ospedale ma soprattutto nel territorio, e tra un mese ci potremo sentire per il nuovo pronto soccorso, perché questa è diventata una specie di leggenda metropolitana dell'Italia, il pronto soccorso di Vibo. Non le dico la data, me la tengo nella mia testa, ma sul nuovo pronto soccorso avremo, credo, delle sorprese positive. Questo dunque Luigi Rubens Curia, il commissario straordinario che sta cercando di risolvere la situazione dell'ospedale di Vibo Valentia. E invece nuove possibilità di cura dell'AIDS sono quelle che potrebbe offrire una piccola molecola scoperta dai ricercatori dell'Istituto di Genetica del CNR. Mentre le terapie attuali spesso sviluppano resistenza ai farmaci, quelle nuove sarebbero efficaci anche in terapie lunghe. Questa ovviamente una buona notizia per la ricerca italiana, che però, come sappiamo, resta alle prese con le difficoltà di finanziamento. Dove va la ricerca italiana? Fare il punto prova il nostro Federico Pedrocchi. La ricerca scientifica italiana ha prodotto negli ultimi 2-3 decenni certamente dei buoni risultati, e in alcune aree si sono viste anche grandi cose, ma è altrettanto vero che la ricerca scientifica è sempre fortemente connessa ai fondi che le arrivano, e quindi il nostro paese non ha, per tante ragioni, a volte oggettive, a volte non poche, dettate da visioni errate e insensibilità al problema, il nostro paese non ha una tradizione di grandi investimenti per la ricerca. Se pensiamo al programma che gli Stati Uniti hanno varato nel settore strategico delle nanotecnologie, ebbene, questo programma da solo ha tutti gli investimenti che l'Italia impiega per tutta la ricerca. Cosa sta succedendo negli ultimi anni allora? Il quadro si fa molto complicato perché i risultati che si producono oggi provengono da attività iniziate 4-5 anni fa, mentre il calo di investimenti pubblici e privati, attenzione, noi in Italia abbiamo pochissima ricerca scientifica industriale, il calo di questi investimenti negli ultimi anni è drammatico. Potremmo superare quindi una soglia di non ritorno, perché, questo è bene che sia chiaro, se si perdono certe porzioni di conoscenza si entra in una dimensione analoga a quelle delle lingue che scompaiono. Ad un certo punto non le parla più nessuno, ovvero, per quanto riguarda la ricerca, si perdono gli strumenti di base che servono a produrla. Federico Pedrocchi, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:33, le notizie di oggi. Il decreto Gelmini è legge, ora si torna alla serietà, dice il ministro, e promette la prossima settimana presenterò la riforma dell'università. Roma assediata dagli studenti, tensioni nella manifestazione a Piazza Navona con 4 feriti, tafferugli anche a Milano. Positive le borse, oggi nuova flessione dei tassi interbancari, ma non è ancora finita, dice il commissario europeo Barroso. L'Unione è pronta ad intervenire in tutti i paesi. Chiedo perdono, dice il rumeno che aggredì e uccise un anno fa Giovanna Reggiani, attesa oggi la sentenza. Sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Siria dopo il raid aereo di domenica scorsa in territorio siriano da parte di elicotteri americani provenienti dall'Iraq. L'ambasciata americana a Damasco potrebbe chiudere. Multe per 1 milione di euro per le suonerie dei cellulari. L'antitrust interviene nei confronti di 5 società. E come dicevamo nei titoli, nuova flessione dei tassi interbancari denominati in euro. Oggi l'Euribor a 3 mesi è sceso ancora di 3 punti base al 4,83% e si è così posizionato sui minimi dallo scorso 22 aprile. Si tratta tra l'altro del 14° ribasso consecutivo. Ma non è finita qui, così avverte il commissario europeo Barroso. Questa mattina c'è stata una riunione straordinaria della Commissione europea sulla crisi della finanza mondiale. E allora andiamo a Bruxelles, dove c'è Enrico Brivio. Buongiorno. Buongiorno, sì, si sta concludendo ora la conferenza stampa del Presidente Barroso e del Commissario agli Affari Economici Joaquín Almunia. In questa conferenza stampa Barroso ha presentato una serie di misure che tendono a riorientare l'intervento europeo alla luce della crisi finanziaria. Non ci sono vere e proprie nuove risorse, si tratta sostanzialmente di riorientare le misure attuali. Si sono citati per esempio i 350 miliardi di euro di fondi strutturali dal 2007 al 2013, in modo da essere usati in modo più flessibile per tener conto della crisi, per esempio facilitare misure che vadano a favore dell'occupazione di persone che si trovino in difficoltà a causa della crisi, e anche le regole della concorrenza dovranno essere interpretate, e il patto di stabilità in modo flessibile alla luce della crisi. È stato comunque anche varato un piano a favore dell'Ungheria e si è detto che la Commissione europea darà 6,5 miliardi a sostegno dell'Ungheria nell'ambito dell'intervento del Fondo Monetario. Da Bruxelles è tutto. Grazie Enrico Brivio. La prima pagina di Libero Mercato quest'oggi, la foto vignetta, c'è un Berlusconi vestito da Babbo Natale dietro a un albero di Natale pieno di regali e di banconote da 500 euro. Toglieteci almeno le tasse sulle tredicesime, questo l'appello al governo. Però abbiamo parlato poco fa di quello che ha detto Berlusconi su questa possibilità, probabilmente non ci sono i fondi necessari. Torniamo però al vertice di Confcommercio. Sì, perché da qui sono emersi oggi diversi dati sulla crisi, dati che riguardano strettamente l'Italia, e allora torniamo dal nostro Vincenzo Miglietta. Buongiorno ancora. Sì, buongiorno. Un incontro, quello della Confcommercio, con il Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha preceduto il Consiglio Generale dell'Associazione in corso in questi minuti. Il Presidente Carlo Sangalli ha sottolineato al Premier le priorità del settore affinché si riesca ad uscire dalla crisi. Come dicevate da studio, una crisi che sta penalizzando particolarmente le piccole e medie imprese. Allora ascoltiamo le richieste di Sangalli. Certamente è importante continuare a potenziare la detassazione degli straordinari, dei premi, degli incentivi, degli incrementi di produttività. Abbiamo chiesto di prendere in seria considerazione la detassazione della tredicesima. Abbiamo anche chiesto, proprio per l'impatto che la crisi finanziaria sull'economia reale e che colpisce in modo particolare i settori che noi rappresentiamo, un rapporto tra sistema bancario e piccole e medie imprese. Abbiamo anche chiesto di attivare la garanzia sovrana dello Stato per i consorzi fidi e soprattutto di valutare l'impatto di questa crisi sul nostro mondo per arrivare ad una rivisitazione dei parametri degli studi di settore. Leva fondamentale per Sangalli è la riduzione della pressione fiscale, attuando, dice Sangalli, un federalismo all'insegna del principio di responsabilità nella spesa e nella tassazione. È tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. A Roma in qualche modo restiamo, perché c'è un aggiornamento sui tafferugli a Piazza Navona dopo l'approvazione della riforma della scuola Gelmini. 4 i feriti, non 2 come inizialmente si pensava, e 2 di loro, 2 poliziotti, sono stati ricoverati poco fa in ospedale perché i medici sul posto hanno ritenuto opportuni ulteriori accertamenti. Vi terremo aggiornati. Abbiamo parlato naturalmente anche oggi dell'andamento delle borse, degli scenari che riguardano la crisi con l'intervento annunciato dell'Unione Europea. Di questo naturalmente si parla anche al World Business Forum che è in corso in questi giorni a Milano. Paolo Piacenza, che per Radio 24 seguirà l'evento, di che cosa si parla, Paolo? Sì, buongiorno, qui dal Milano Convention Center, dove questa mattina ha preso il via la quinta edizione del World Business Forum. Oltre 2000 manager partecipano al lavoro di questo laboratorio collettivo dell'imprenditoria. Proprio da un'indagine su 1150 manager sul tema della crisi economica emerge che il 53% dei manager italiani la crisi si supera continuando a investire in innovazione e ricerca, però il 41% di loro ritiene che un maggior controllo da parte dello Stato sia necessario e il 40% che gli interventi delle ultime settimane siano stati tardivi. Di questo, di crisi economica, ma anche di strategia, di imprenditoria, si parla. Questa mattina il guru del business strategico C.K. Pralad, l'amministratore delegato di Luxottica, Andrea Guerra, e poi un personaggio eterogeneo come Francis Ford Coppola, che è regista premio Oscar, ma anche imprenditore. Nel pomeriggio si prosegue con l'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, e domani ci saranno anche di scena Fabio Capello e Garry Kasparov. E da World Business Forum è tutto. Insomma, un parterre di ospiti anche abbastanza vario. Grazie al nostro Paolo Piacenza. Vi ricordiamo tra l'altro che Radio 24 trasmetterà in diretta proprio dalla Fiera di Milano negli spazi del World Business Forum, appuntamento alle 17 per Focus Economia. Ci saremo anche noi, insomma. Multe per 1.160.000 euro. Lo ha deciso l'antitrust nei confronti di 5 gestori di telefonia mobile per pratiche commerciali scorrette. Il caso riguarda i messaggi in abbonamento settimanale per ricevere contenuti multimediali sul telefonino, le suonerie insomma. Tutto questo, dice l'antitrust, senza che fossero chiariti i costi e le modalità di fruizione, inclusa la disattivazione. 5 le società coinvolte. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Per andare a dare uno sguardo, come sempre, sui giornali stranieri, cominciamo dalla notizia che danno i quotidiani inglesi, ma che riguarda la multinazionale tedesca. Sì, sia il Guardian che l'Independent hanno in prima pagina delle foto del Maggiolone e la notizia è che Volkswagen ieri, che ha annunciato di detenere il 74%, o meglio, il fatto che la Porsche ha fatto sapere di detenere il 74% di Volkswagen, ha fatto schizzare le azioni in questo periodo. È una notizia incredibile, con grande gioia per chi le aveva e molta meno gioia per chi magari le aveva vendute nei giorni precedenti, quando tutte le azioni dell'automobile erano diventate tutto a un tratto azioni di cui disfarsi velocemente. E questo ha fatto per un giorno, poi vedremo come andranno le borse, Francoforte è volatile come tutte le altre, ha fatto per un giorno della Volkswagen Porsche l'azienda con il più grande valore di mercato, superando anche colossi americani come Microsoft e General Electric. Giulia, dall'America è arrivata la crisi finanziaria, ora arriva un altro allarme. Sì, questo è il New York Times, che non ha paura insomma di usare anche toni direi molto allarmistici, perché la prossima crisi, così la chiama il New York Times, è quella delle carte di credito. Chi ha amici americani sa che quando aprono i loro portafogli ce ne sono tante. Il problema è che mentre in Italia per esempio quasi ne abbiamo al massimo due, ci sono poi delle restrizioni vere e proprie delle banche, e queste carte di credito servono spesso una per finanziare l'altra, e naturalmente è una specie di castello di carta. Se cominciano i debiti cominciano a essere troppi, diventa una crisi sia per i consumatori, che non possono ripagare tutte queste carte di credito o di debito, e poi naturalmente per le banche, che a loro volta costituiscono questa catena di crediti non riscuotibili. Secondo il New York Times cominceranno ad arrivare a brevi gli annunci di questa nuova crisi, e bisognerà vedere se anche in questo caso il governo Bush è pronto a intervenire. Grazie Giulia Crivelli. Grazie, l'abbiamo mozzata mentre ci salutava. Restiamo però in America, dove mancano solo 6 giorni all'attesissimo Election Day. Allora prosegue il nostro viaggio nei temi della campagna di Obama e McCain. Oggi parliamo di politica internazionale. Politica estera nella campagna elettorale americana significa oggi soprattutto Iran, Iraq e rapporti con la Russia. Basti però dire che se un'eventuale presidenza Obama potrebbe portare a una visione più multilaterale delle relazioni diplomatiche, John McCain alla Casa Bianca potrebbe sì distinguersi rispetto al binomio Bush-Cheney, riportando a Washington una visione più multilaterale del mondo, ma lo farebbe a modo suo, à la carte, selezionando con chi e dove avviare relazioni. Obama si è opposto fin dall'inizio all'invasione dell'Iraq, ha detto no all'incremento delle truppe e intende ritirare una o due brigate al mese, completando il ripiegamento nel giro di 16 mesi. Sull'Iran, il senatore dell'Illinois vuole rafforzare le sanzioni economiche, senza escludere l'opzione militare. Osa però pensare all'avvio di contatti diplomatici senza precondizioni, al punto da non escludere un incontro con i leader iraniani. Sui rapporti con la Russia, la linea sposata da Obama non è tanto drastica quanto quella di McCain, il quale invece ha duramente attaccato Mosca nel corso della crisi georgiana, arrivando a chiedere di rivedere il suo possibile ingresso nel WTO. Sull'Iraq, McCain ha votato nel 2002 per autorizzare l'invasione. È tuttora a favore dello stanziamento di truppe a Baghdad e si batte contro una tabella di marcia definita per il ritiro, nonostante preveda di completarlo entro il 2013. Infine l'Iran, McCain vuole formare un'alleanza con i paesi europei per accrescere la pressione economica e diplomatica su Teheran. Il candidato repubblicano rifiuta un approccio diplomatico senza precondizioni e non scarta un'opzione militare, per la quale però si consulterebbe prima con i leader del Congresso. Sergio Nava, Gera 24, Il Sole 24 Ore. 13:47 minuti, GR24 extra large. Roma assediata dagli studenti, tensione nella manifestazione a Piazza Navona con 4 feriti, tafferugli anche a Milano. Il decreto Gelmini è legge, ora si torna alla serietà, dice il ministro e promette la prossima settimana presenterò la riforma dell'università. Oggi borse positive, Milano più 7%, nuova flessione dei tassi interbancari, ma non è ancora finita, dice il presidente della Commissione Europea Barroso. L'Unione è pronta a intervenire in tutti i paesi. Chiedo perdono, dice il rumeno che aggredì e uccise un anno fa Giovanna Reggiani, attesa oggi la sentenza. Il 30 ottobre del 2007, sarà un anno esatto proprio domani, a Tor di Quinto Giovanna Reggiani fu aggredita e uccisa. Il processo per la sua morte si avvia ormai alla conclusione. Oggi la parola va al difensore di Romulus, Nicolae Mailat, davanti alla terza corte di Assise di Roma. Poi i giudici si riuniranno per la Camera di Consiglio. Ed è stato invitato dal presidente della terza corte d'assise di Roma a dire qualcosa a Romulus Nicolae Mailat, l'uomo accusato. Lui si è rivolto all'aula dicendo: chiedo perdono innanzi a Dio e spero che giustizia sia fatta. Io mi sento colpevole per quello che ho fatto, ma ho solo rubato una borsa. Così si è difeso. E un anno dopo siamo tornati a Tor di Quinto per ripercorrere la strada che fece Giovanna Reggiani. È cambiato qualcosa in quel quartiere? Allora ce lo racconta Vanessa Colangiuli. Buongiorno, mi trovo su Viale Tor di Quinto, nei pressi della stazioncina dove il 30 ottobre del 2007 fu assalita Giovanna Reggiani, una zona che viene divisa dalla via Flaminia, da un lato la stradina di poche centinaia di metri circondata dalla campagna, dall'altra il quartiere abitato. Il vialetto fino a un anno fa era sterrato e circondato da alcuni campi nomadi che sono stati poi sgomberati. Questo tratto costituiva un percorso obbligato per i passeggeri che arrivavano alla fermata Tor di Quinto sino a quando la stazione non è stata chiusa per lavori il 5 novembre dello scorso anno. Oggi la stradina risulta asfaltata e dotata di impianti di illuminazione. Nel quartiere Tor di Quinto si avverte però in modo acuto il problema della sicurezza, soprattutto da un anno in qua, anche se i pareri dei residenti sono discordanti. Sentiamo. La situazione mi sembra che è rimasta identica a livello di polizia e di controlli, mi sembra che non è che ci sia qualcosa di più. Non è che per me è cambiato qualche cosa, perché certe situazioni di sicurezza non le sentivo prima come adesso. Per esempio dopo le 8 qui c'è il deserto totale. E c'è meno caos, c'è meno disordine. Voi vi sentite più sicuri? I poliziotti di quartieri ce ne sono e si vedono spessissimo, quasi sempre, io li vedo sempre. Prima di chiudere volevo ricordare che i lavori di sistemazione della stazione, che inizialmente dovevano concludersi in 6 mesi, potrebbero proseguire sino al 2011 e prevedono anche l'ampliamento della strada di accesso e un nuovo parcheggio. Per il momento da Tor di Quinto è tutto, a voi la linea. E grazie a Vanessa Colangiuli. Dall'Italia al Medio Oriente, in Siria la situazione diventa sempre più tesa dopo il raid americano. Sentiamo. Dopo la scuola e il centro culturale statunitensi, ora Damasco minaccia di chiudere anche l'ambasciata americana. Tutto questo dopo il raid aereo lanciato domenica dall'esercito statunitense contro un villaggio siriano al confine con l'Iraq è costato la vita a 8 civili. Il Consiglio dei Ministri siriano ha ordinato ieri la chiusura del centro culturale statunitense e della scuola americana a Damasco, anche se nella pratica i due istituti sono rimasti poi oggi aperti. Ora pare che l'invito venga rivolto anche all'ambasciata. Intanto la Siria ha indirizzato una lettera al segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, chiedendo che il Consiglio di sicurezza riconosca formalmente la responsabilità degli Stati Uniti nell'attacco aereo. Il ministro degli esteri siriano, Walid al-Mawalim, ha parlato esplicitamente di aggressione terroristica. Da Washington nessun commento ufficiale, ma fonti del Pentagono dicono che nell'attacco sarebbe stato ucciso un membro di Al-Qaeda. Da Damasco all'Europa però le proteste continuano. Il ministro degli esteri francese ha chiesto che sull'episodio venga fatta piena luce. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Situazione in evoluzione, la seguiremo nel corso della giornata. Così come ci sono aggiornamenti su cortei e tafferugli a Roma, ma non solo, dopo l'approvazione del decreto legge sulla riforma della scuola. 4, lo ricordiamo, i feriti a Roma, 2 sono poliziotti, degli altri 2 ancora non si hanno notizie, mentre arriva la notizia anche di 2 feriti a Milano, dove anche qui in un corteo ci sono stati alcuni tafferugli. 4 i cortei partiti intanto in questi minuti a Napoli. Continueremo naturalmente a raccontarvelo nel corso della giornata. Sì, però adesso potete rilassarvi perché è mercoledì, adesso è venuto il momento del nostro spazio per le notizie che riguardano la mondanità. D'autunno le foglie si congedano dagli alberi e le persone si mollano a vario titolo con varie modalità. Cominciamo questi congedi autunnali con Elisabetta Canalis, l'antesignana delle veline appassionate di calciatori, no, tutti i gusti sono gusti per carità, che a quanto pare torna single. Nonostante le sue ultime dichiarazioni facessero in realtà presagire un futuro ben diverso, con Reginaldo è arrivato il crack, improvviso come un temporale estivo, nonostante, come vi dicevo, siamo indubitabilmente d'autunno. Dopo 5 mesi di amore intenso e vissuto fianco a fianco, la Canalis avrebbe detto addio al calciatore di Parma. Colpa sembra dell'esuberanza del ragazzo, troppo amante della bella vita, delle donne, dei festini notturni. E sì che agli amici lei aveva confessato proprio di recente: quasi quasi me lo sposo. Si è fermata per tempo, meglio tardi che male accompagnata, mettiamola così. Ora vi vo a parlare invece di un congedo in realtà già avvenuto da tempo, ma che riaffiora nostalgico in questi giorni dal passato e con un certo rimpianto. È quello dell'attrice, regista e produttrice Eleonora Giorgi, che vedendo tornare il suo biondo e selvaggio ex Massimo Ciavarro, seriamente acciaccato dall'Isola dei Famosi, ammette: lasciare Massimo è stato un errore. Era un momento particolare, spiega la Giorgi. Allora gli uomini dovevano essere tutti meravigliosi, perfetti. Quando questo sia accaduto, quando questa incredibile utopia, a me sinceramente è sfuggito, non so a voi, comunque continua, mi sembrava che ci fosse qualcosa di sbagliato, che fosse difettato, dice, difettato, e l'ho lasciato. Avrei potuto comportarmi diversamente, conclude l'attrice, anche perché avevamo un figlio, con questo non dico che tornerei con Massimo. Oggi sono single e non so neanche immaginare con che tipo di uomo mi vedrei bene, se non sa lei. E visto che c'è, aggiunge di aver cambiato idea sulla chirurgia estetica, no? Dice: ho sempre pensato che fosse una follia, ma ho cambiato idea e forse mi rifarò tutta. Evidentemente ora si vede difettata, forse almeno quanto vedeva difettato Massimo Ciavarro. In ogni caso, com'è che le donne dello spettacolo, sinché sono splendide, no? Le vigate condannano senza mezzi termini quelle che ricorrono alla chirurgia estetica, e poi i primi segni inequivocabili del tempo cambiano improvvisamente idea, com'è? E a proposito di cambi di idee e di congedi, vi ricordate che dopo il fastoso matrimonio e l'altrettanto disastrosa separazione con Anna Falchi, l'immobiliarista scalatore Stefano Ricucci aveva minacciato con un SMS di gettarsi da un cornicione se la bella soubrette Claudia Galanti non si fosse fidanzata con lui? Ve lo ricordate? E vi ricordate che di recente aveva dichiarato che la voleva sposare al più presto in Belize? Bene. Ora, sempre al più presto, Ricucci vuole invece che lei lasci l'appartamento a Milano e meni le tolle, in milanese significa tolga il disturbo, in gran fretta, poiché il Ricucci già si accompagna a quanto pare ad altra avvenente femmina. La Galanti dunque esce di scena, la galanteria di Ricucci forse non è mai pervenuta. E con questo Roberta Giordano si ferma qui e vi dà appuntamento con il gossip al prossimo mercoledì. Legge la riforma della scuola, in piazza esplode la protesta, tafferugli con feriti a Roma e a Milano. Il ministro Gelmini promette ora la riforma degli Atenei, ma per motivi di sicurezza non va all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università Lateranense.